America 24 di Mario Platero. It's the end of a political era here in Pennsylvania as five-term incumbent Senator Arlen Specter has been defeated. Benvenuti ad America 24, elezioni parziali, elezioni primarie per scegliere i candidati che poi si confronteranno a novembre. Con alcune sorprese avanza in America l'onda lunga della protesta, del rifiuto dell'establishment e, diciamolo, del pernacchio a chi pensa di poter decidere a tavolino chi sarà il leader del futuro per poi imporlo dall'alto, come capita spesso in varie nazioni. Una tendenza questa del rifiuto dell'establishment di cui si parla sottovoce da tempo, ma è confermata dai risultati elettorali, dicevo, di queste primarie. Uno sviluppo, questo, della protesta che riguarda sia la destra che la sinistra. Gli elettori democratici, ad esempio, hanno bocciato Arlen Specter, un senatore anziano della Pennsylvania, direi una figura storica. Io non ricordo giorno del mio reportage politico in cui Specter non ha avuto in un modo o nell'altro un qualche ruolo dal Senato. Era un senatore repubblicano, poi è passato ai democratici, ma il trend, dicevo, riguarda anche i repubblicani. E sempre martedì notte, quando abbiamo avuto i risultati di queste elezioni, ci siamo accorti che Rand Paul, uno dei più grandi, più importanti esponenti del movimento Tea Party, ha dato una sonora legnata a Trey Grayson, un repubblicano istituzionale, nella corsa per il seggio senatoriale del Kentucky. The results are in for yesterday's primaries in Kentucky. The Tea Party activists have spoken. Their candidate Rand Paul has defeated Secretary of State Trey Grayson. L'annuncio della vittoria di Paul. Il fatto che sorprende, devo dire, è che questo sia successo in Kentucky, che è uno stato conservatore, affidabile, ligio al rispetto gerarchico, e invece questa volta ha ignorato lo stato, la base del Partito Repubblicano, le direttive di Mitch McConnell, deputato dello stato, forse il più potente repubblicano in Congresso, che aveva mobilitato la macchina statale del partito per far passare Grayson, e invece c'è stata la sconfitta, anzi, più che sconfitta, una disfatta all'interno del Partito Repubblicano, perché Rand ha vinto con una maggioranza addirittura di 24 punti su Grayson. Questo, tra l'altro, lo osserviamo anche in Florida, dove il governatore attuale, Crist, ha dovuto uscire dalle corse delle primarie per paura di essere sconfitto da un altro esponente del Tea Party e ha annunciato che correrà come indipendente. Dunque è un fenomeno questo che si sta sviluppando un po' a livello nazionale. Qual è la morale di questa lezione? Il movimento del grassroots, cioè il movimento che parte dal basso verso l'alto, in questo momento dà maggiori garanzie di successo. La gente è scontenta con l'amministrazione, con il presidente Obama, per la riforma sanitaria, per gli altissimi disavanzi pubblici che stanno strangolando o rischiano in prospettiva di strangolare l'economia americana. Anche se adesso le cose, proprio grazie agli stimoli di questi disavanzi pubblici, le cose vanno avanti, e dunque la protesta si traduce nella bocciatura. Barack Obama aveva sostenuto fino in fondo Specter, ebbene la bocciatura di Specter è anche la bocciatura del presidente. C'è tempo ancora fino a novembre, ma il movimento tendenziale che sta emergendo è quello. L'altra brutta sorpresa per Barack Obama è che l'unica vittoria che c'è stata in campo democratico, e cioè una vittoria per il seggio che era rimasto vacante del Congressman Murtha, che era mancato alcuni mesi fa, se lo è aggiudicato in effetti un democratico, Mark Critz. Però Mark Critz ha fatto tutta la sua campagna contro la riforma sanitaria del presidente Obama. Torniamo per un momento alla crisi economica e finanziaria. Abbiamo visto come le borse continuino ad essere piuttosto fragili. Fra poco vedremo quale sarà la reazione di Wall Street, ma intanto ho una notizia piuttosto interessante. In questo momento di grande sfiducia nei confronti dell'Europa e dunque nei confronti dell'Italia, che fa parte dell'Eurozona e comunque dell'Europa, posso dirvi che un'azienda importante americana, anzi una banca importante americana, State Street, ha investito nel nostro paese, ha rilevato le attività di banca depositaria di Intesa San Paolo, ha speso la bellezza di 1,28 miliardi di euro ed è entrata in possesso di queste attività di banca depositaria. Le attività di banca depositaria sono le attività di custodia, di conferma delle operazioni di compravendita, di conferma dei prezzi a cui una certa operazione è avvenuta e dunque quello che si chiama il back office, tutta quella parte di servizi che nel contesto delle operazioni finanziarie non si vede. Un ruolo chiave, State Street, una banca vecchia di 215 anni e la numero due nel settore, ha attività per 20.000 miliardi di dollari e opera in tutto il mondo. L'operazione italiana è stata chiave, ma ho incontrato Jay Hooley, l'amministratore delegato di State Street, che verrà fra una decina di giorni in Italia, e con lui ho fatto una lunga chiacchierata sulle implicazioni strategiche di questa loro acquisizione. Mario, we've had a long focus extending over a decade of focusing on select markets in Europe that we think have high growth prospects for savings and retirement. Ecco, sulla questione di scegliere di sbarcare in Europa, Hooley dice che si è focalizzato per decenni nel selezionare i mercati in Europa e ritenevano di avere delle buone prospettive di crescita. Per loro l'Europa è un mercato chiave, sono sbarcati nel 2003 con l'acquisto delle attività di banca depositaria di Deutsche Bank e l'Italia restava uno dei mercati chiave. Perché? Beh, perché alla fine lui dice le cose in questo momento forse non andranno troppo bene, ci saranno delle incertezze, però l'Italia, l'Europa è un continente e l'Italia un paese in cui certamente i pensionati non spariranno, le necessità di gestione della struttura finanziaria non cesserà e dunque per noi era un mercato chiave. Con questa operazione che abbiamo compiuto in Italia abbiamo chiuso il percorso strategico della nostra presenza europea. Our institution over the course of the last 10 years has evolved where 40% of our revenues and our workforce are outside of the US. La risposta negli ultimi 10 anni, la State Street si è evoluta e ora oltre il 40% del loro giro d'affari è fuori dagli Stati Uniti e si seguono entrambi i mercati, sia quello europeo che quello asiatico e naturalmente ovviamente quello americano, e un po' in tutte le regioni del mondo c'è stata una crescita molto attraente. Lo sviluppo ulteriore che menziona Hooley è che la loro banca svolge anche attività di gestione di portafoglio per una cifra, devo dire, alquanto elevata. È il secondo gruppo al mondo, stiamo parlando di 1.900 miliardi di dollari gestite, seconda soltanto dopo BlackRock. Ebbene, la piattaforma italiana acquisita attraverso Intesa San Paolo servirà anche per il lancio delle attività di gestione, soprattutto nel settore ETF, che in questo momento non sono così sviluppate nel nostro paese. Yeah, our plan is, you know, what we've acquired is the talent that represent the organization that we're acquiring. We view that very favorably. Per noi, dice ancora Hooley, la cosa importante è il talent. Vogliamo fare in modo che i clienti che acquisiamo si trovino a proprio agio con la visione di lungo periodo di Wall Street. Non si guarda al breve periodo, dunque, questi incidenti che vediamo, anche se durano un anno, anche se dureranno un anno e mezzo, per una istituzione che ha 215 anni di storia alle spalle, sono comunque movimenti di breve termine. E uno degli impegni più importanti è quello di puntare sulla forza lavoro di oltre 500 dipendenti e sul commitment, sull'impegno, dice Hooley, di fare un aumento di capitale vicino ai 500 milioni di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo a Bob Dylan per due ragioni. La prima è che domani, 21 maggio, ci sarà il 50° anniversario del debutto dell'artista a Caffè Lynan, un locale upstate New York, ma soprattutto il 24 maggio ci sarà il 69° compleanno di Dylan. Grandi festeggiamenti attesi a livello nazionale e noi lo festeggiamo con una sua grande canzone, I Want You. I want you. I want you. I want you. So bad, honey, I want you.